comportarsi come nemico della religione cattolica, vero, del luogo. Ma insomma, può anche aspettarsi qualche considerazione critica, ecco, da parte del pastore diocesano. Devo dire che non abbiamo avuto altro che incoraggiamenti dall'arcivescovo, anche come istituto di scienze religiose, per il quale vale quanto ho detto circa la laicità strutturale. Naturalmente, invece, direi ex officio, invece il settore del corso istituzionale, vero che oggi noi apriamo ufficialmente, vero, senza dubbio quello è anche istituzionalmente, vero, collegato con il magistero dell'arcivescovo, e in quello c'è un'ingerenza, se vogliamo, di competenza, sulla quale però anche io non ho che dichiarare quanto noi veramente sperimentiamo anno per anno e giorno per giorno una convinta armonia di intenti. In questo senso sento proprio con questa occasione di esprimere all'arcivescovo nostro questo mio sentimento convinto. Saluto poi in particolare il commissario del governo, dottor Mario Caltabiano, l'assessore provinciale alla cultura, dottor Tarcisio Grandi, il magnifico rettore dell'Università di Trento, che ci onora della sua presenza, il soprintendente scolastico, professor Mengon. Ecco, vorrei fermarmi qui senza far torto a nessuno. Cioè, vedo il professor Prodi, il direttore dell'Istituto Italo-Germanico, Don Giacometti, il direttore del Collegio Arcivescovile, ma a questo punto consentitemi di fare un saluto cordiale, generico e un ossequio particolare a tutti gli intervenuti. Ancora uno devo pur ricordare, Monsignor Messner, vero, il prefetto degli studi del seminario e della facoltà di Bressanone, dato anche la distanza per cui proviene. Poi devo porgere il saluto ai docenti del corso istituzionale, ai presenti, alcuni sono venuti da lontano per essere presenti a questa ricorrenza, come pure a quelli che invece sono presenti alla cattedra del lavoro. E non ultimo, certo, ai nostri allievi del corso istituzionale, che vedo e ringrazio che con piacere presenti in larga misura. Ecco, e così teniamo questa prolusione al settimo anno del corso istituzionale di scienze religiose. Mi sembra già una cosa impossibile che così brevemente e rapidamente si sia andato compiendo, vero, il traguardo di questo settimo anno di insegnamento, questo anno, settimo anno scolastico che noi stiamo già praticando e svolgendo nel bel mezzo ormai, e contemporaneamente il 18° anno della vita dell'istituto stesso. Il corso quest'anno conta 98 iscritti. Come sanno, in realtà l'insegnamento si svolge intercalare, cioè in alternativa. Quest'anno sono attivati il primo e il terzo corso, l'anno prossimo sarà invece la volta del secondo e del quarto corso. Dunque ci sono 63 iscritti nel primo corso e 35 iscritti nel terzo corso. L'istituto conta fino ad oggi 31 diplomati col magistero di scienze religiose e 9 diplomati in scienze religiose. Questo dunque per quanto riguarda il ringraziamento, il saluto cordiale che mi è doveroso porgere. Ringraziamento lo riservo, direi quasi al 100%, senz'altro, principaliter al Cardinal Paul Popard, presidente del Pontificio Consiglio per la Cultura, che è di nuovo in mezzo a noi. Non mi dilungo nella presentazione perché suppongo senz'altro che la sua figura spirituale è a tutti nota. E mi limito solo a ricordare la risonanza mondiale che la sua presenza, la sua partecipazione, anche l'impostazione e il tono che egli recentemente ha dato alla dichiarazione relativa alla soluzione del caso Galilei, certamente basterebbe da sola a costituire un biglietto di visita. Vero? In particolare tra noi, poi, certamente tutt'altro che ignoto, e per questo sento anche di potermi dispensare da ulteriori presentazioni, vero, ricordiamo ancora al vivo come in questa medesima aula, il 7 dicembre dell'anno 1987, nel giorno in cui veniva promulgata la notizia della nomina del nuovo arcivescovo di Trento, Sua Eminenza era presente in questa medesima aula, vero, per il ventesimo, la celebrazione del ventennio del circolo Bernardo Clesio, del centro Bernardo Clesio, con una lezione magistrale che gli ci tenne in quell'occasione sul tema Chiesa e Cultura. Ma è solo un punto d'aggancio che ci ricorda la perenne e diuturna amicizia con cui Sua Eminenza ci è stato e continua ad esserci vicino e di cui la presenza odierna è semplicemente l'ennesima prova, perché veramente la disponibilità e la prontezza con cui egli ha secondato la nostra domanda di voler essere con noi per questa prolusione è l'ultimo grande dono che abbiamo ricevuto e una prova evidente di questa amicizia costante. Ecco, e accanto a questo fatto però dobbiamo ringraziare del dono spirituale che la sua stessa presenza ci porta, con tutto il retroterra della sua attività negli anni e nei decenni passati, con le idealità di quelle che sono state, di quella che è stata l'opera dell'Institut di Parigi, da lui diretto così intelligentemente per molti anni, in una maniera così brillante. Ecco, noi abbiamo bisogno veramente di essere spalleggiati da grandi esempi spirituali. Lasciatemi ricordare in questa medesima occasione l'altro caso collaterale un po' alla forma del nostro istituto, quell'Istituto di Scienze Religiose di Urbino, fondato e diretto dal buon professor Italo Mancini, del quale oggi piangiamo la perdita, e che ci ha anche veramente assistito, vero, con l'esempio, con le ispirazioni, e Mancini è stato anche tra noi con indimenticabile presenza e stimolo spirituale. Eccoci, pur muovendoci a un livello molto più modesto, si parva licet componere magni, parlando un latino non insidioso, siamo profondamente convinti della nostra vocazione sia verso la società e la cultura, sia verso la stessa comunità cristiana. Mi ha fatto impressione questi giorni una espressione, un'opinione di Sergio Quinzio, pubblicata qualche giorno fa sul Corriere della Sera, dove diceva che gli intellettuali non si sono mai occupati tanto di Chiesa come in quest'anno 1992. E proseguiva testualmente dicendo: c'è una grande curiosità da parte laica, senza risposta. Quel barlume che la Chiesa esprime riesce ad attrarre, ma la cultura religiosa è debole, ha la forza sufficiente per attrarre domande. Aggiungo a questo una considerazione che un altro amico del nostro istituto, il professor Eugen Bieser di Monaco, continuamente ripropone anche nei suoi scritti, rilevando e guardando a quel fenomeno che è della letteratura mondiale, quello che lui chiama la Jesus Bewegung, la moltitudine, noi saremo tentati di dire anche in senso dispregiativo, la congerie di pubblicazioni che si occupano di Gesù, in tutte le salse, in tutti i colori, in tutte le valutazioni possibili, vero? Fenomeno che forse noi qualche volta siamo portati piuttosto a guardare con senso critico e che certamente non esprime sempre in modo autentico la fede cristiana, esprime però un intramontabile desiderio dell'umanità odierna, un'insopprimibile ricerca che noi dobbiamo assolutamente prendere in considerazione. Ecco, e di fronte a questi fenomeni, direi anche proprio tornando alla nostra piccola esperienza, a quel poco che faticosamente siamo andati cercando di costruire in questa nostra città, in questo nostro contesto, ecco, vorrei proprio dire che non mi sento del tutto convinto di certe lagnanze che sento a proposito della indifferenza religiosa dei nostri giorni. Dipende da ciò che si intende per indifferenza religiosa. Se noi in questa sete di valori, in questa ricerca profonda e tante volte imbarazzata e non denominata che proprio la cultura odierna ripropone, insomma non possiamo parlare del tutto di indifferenza, ma soprattutto veniamo invitati, costretti a metterci insieme in cammino, a cercare di condividere queste ansie, ad aiutare perché esse trovino uno sbocco, ad aiutare in poche parole che trovino il loro giusto orientamento in ragione di quelle che sono le sensibilità, le suscettibilità dei nostri giorni. E non è un caso, mi pare, se il nostro istituto, senza particolare programmazione, senza che abbia voluto in qualche maniera prefabbricare l'indirizzo, ma in questi 18 anni è andato maturando quasi senza accorgersene un interesse del tutto particolare per figure come Romano Guardini, per un verso, che se ha un verbo vivo in se stesso è proprio la ricerca di comprendere l'uomo del nostro tempo, la situazione spirituale dei nostri giorni, e più istituzionalmente, o rifacendosi veramente anche alla storia spirituale nostra di casa, per Antonio Rosmini. Sono divenuti questi due nomi, in certo qual modo, vero, i santi tutelari, senza volerlo, del nostro istituto. Ecco, proprio per questo e in questo contesto sono intimamente grato a Sua Eminenza Cardinal Pupart, anche per il tema che lui ci propone. È un tema nevralgico questo, è un tema tipico di questo tipo di ricerca e di sensibilità, e quindi passo, sono lieto di dare a lui la parola. Grazie. Eccellenza, autorità, signor Presidente e cari amici tutti. Parlare oggi di libertà e di Dio è necessariamente evocare la cultura e il clima culturale entro il quale ci troviamo immersi dopo gli importantissimi avvenimenti storici vissuti negli ultimi anni. Essi infatti hanno cambiato il volto sociopolitico del nostro continente e la fisionomia culturale delle sue due parti, quella orientale, che ha riacquistato la sua posizione di centralità, e l'occidentale, che mi sembra fatica ancora a riconoscerlo. Per parlarne, ho diviso la materia in tre punti. Il primo, cultura e senso religioso come ermeneutica della libertà. Il secondo, l'Europa e la libertà. E il terzo, problemi, proposte, orientamenti. Parliamo dunque di queste parole che indicano particolari correnti di pensiero, quali liberale, libertario, liberalismo, autonomia, solidamente assestate da generazioni nei paesi dell'Occidente, rispondono ad una particolare cultura e a un altrettanto particolare sistema di valori, compenetrati entrambi nell'assetto sociopolitico-economico che quell'Europa si è dato, con un determinato modo di vita. A questo proposito, basta ricordare come nell'est europeo quella medesima terminologia, quei medesimi concetti, filtrati dalla cultura marxista-leninista atea, venivano sì divulgati e diffusi, ma svuotati del loro senso autentico. Accanto a queste parole sorge quella di libertà. Già Paolo VI, 20 anni fa, dichiarava come di libertà se ne è tanto parlato ai nostri giorni, in sede dottrinale per esaltarla e rivendicarla, ovvero per negarla e per ridurla a un'illusione psicologica che rimane ad ogni modo prigioniera d'un invincibile determinismo. E se ne è parlato in sede pratica, in ogni campo dell'attività umana, pedagogica, sociale, economica e specialmente politica, per affermarla con la massima energia ed anche per impugnarla nelle forme più diverse di limitazioni, di repressione e di negazione. La libertà, diceva il Papa Montini, è uno dei temi principali caratteristici della cultura moderna, è affermata, discussa, negata, essa costituisce uno dei campi in cui l'uomo è costretto a prendere posizione. Infatti, la cultura moderna, ieri oggi, quel muro infranto di Berlino ha riacceso una dinamica culturale che non ha lasciato, mi pare, indenne il concetto di libertà umana, verificato nelle diverse concrete situazioni in cui le diverse forme di società si confrontavano. Non solo, ma quel muro infranto ha posto nuovamente in primo piano come la libertà si richiami costitutivamente ad una dimensione inalienabile della vita umana, ossia il senso religioso della vita. Il senso religioso, radice della libertà, ossia la dimensione religiosa come radice della persona, del popolo, di culture, di opere, non è un problema sorto improvvisamente, ma risponde alle attuali preoccupazioni delle culture, perché la cultura, in ultima analisi, determina anche la percezione che l'uomo ha della sua dimensione religiosa e come essa si scopre a fondamento della irriducibilità della persona e delle comunità, irriducibilità a qualsiasi tipo di potere e ideologia liberticidi. La dimensione religiosa dell'uomo porta alla comprensione della libertà autentica e della verità certa, su di esse vigila la cultura. E gli attuali avvenimenti l'hanno dimostrato. La ragione profonda della lacerazione del continente europeo, che oggi con enormi difficoltà si cerca di eliminare, e anche del suo indebolimento come forza propulsiva a livello mondiale, sta nel rifiuto della fede cristiana dovuto anche a deterioramento culturale con i suoi peculiari valori di libertà individuale e di etica sociale. La difficoltà, diceva l'attuale pontefice, in cui oggi si dibatte il vecchio continente, devono indurre i cristiani a raccogliere le loro forze, riscoprendo le loro origini e ravvivando quei valori autentici che ne cementarono l'unità spirituale ed alimentarono la fiamma fulgidissima di una civiltà a cui hanno attinto tante altre nazioni della terra. Quella fiamma fulgidissima, dopo l'oscurità portata dall'ateismo sistematico dell'Est, potrebbe cominciare a risplendere se non fosse oggi la cultura europea a subire le conseguenze di tanti anni di sopraffazione, di mistificazione, investendo anche, ecco la nostra tematica, il fondamentale rapporto tra libertà umana e presenza di Dio. Analizzando la crisi europea, il filosofo Michele Federico Sciacca parlava già nel 1970 di impietà culturale, ossia della perdita dell'intelligenza dell'essere che spinge al nihilismo ontologico e al nominalismo gnoseologico, svuotando l'uomo del suo connaturale patrimonio metafisico e della sua apertura trascendente che è preludio alle esperienze di libertà autentica interiore. Con non minore acutezza, lo storico olandese Johan Huizinga, nella sua diagnosi della società occidentale, sostiene che non è affatto paradossale affermare che una civiltà con un progresso realissimo innegabile possa arrivare alla sua rovina, perché la civiltà esige un saldo ordine giuridico, una legge morale e una norma umanitaria come fondamenti di quella comunità che la civiltà rappresenta. Così sia il cosiddetto blocco orientale che quello occidentale soffrivano di gravi malattie ideologiche tra loro diverse, ma entrambe con effetti dirompenti e terribili circa la libertà e il suo uso esteriore, sociale e politico, divenuto un dogma per alcuni, un pericolo per altri, un ostacolo oppure un fraintendimento sistematico e progressivo, dimenticando che la vera libertà è nell'uomo il segno altissimo dell'immagine divina. Dello stesso convincimento è lo storico inglese Christopher Dawson. Nel suo libro Religione e Cristianesimo nella storia della civiltà, per Dawson non si può comprendere la struttura intima di una società se non si comprende la sua religione, che è chiave della sua storia, custode della sua tradizione, educatrice e maestra di sapienza e di libertà. Devo anche naturalmente citare un francese: la condizione dell'uomo contemporaneo risulta così paradossale per André Malraux, che per la prima volta scrive, Malraux, per la prima volta nella storia, una cultura si definisce mediante il rifiuto di ogni trascendenza. E rifiutare la trascendenza nell'uomo significa dare una cattiva interpretazione della libertà con altrettante tragiche conseguenze, credere e far credere di metterla in pratica. Vediamo dunque questa affermazione dell'uomo religioso come uomo autenticamente libero. In tutte le epoche della storia, l'uomo infatti è stato accompagnato da profonde convinzioni religiose che ne hanno determinato la civiltà. L'uomo, anche nella più violenta persecuzione, non ha mai cessato di interpretare la realtà grazie a parametri rispondenti alla dimensione religiosa, anche se quei parametri tentavano di sopprimere e nullificare tale dimensione. Lo mette, per esempio, in piena evidenza l'opera di Mircea Eliade, l'antropologo e storico rumeno delle religioni, nella sua descrizione dell'uomo, uomo religioso, cioè quello che grazie al suo universo spirituale crede a una realtà assoluta, il sacro, e adotta nel mondo un modo specifico di esistere. E d'altra parte, Eliade scoprì anche l'uomo areligioso, colui che respinge ogni trascendenza. E arrivo alla scoperta del connaturale trascendente nella coscienza umana attraverso il sacro, il mito e il simbolo. Nella storia delle religioni, Eliade scopre un modo globale per ricostruire la storia delle forme religiose e scoprire per ciascuna di esse il proprio contesto. Ogni ierofania, ogni fenomeno religioso costituisce anche un evento storico. E per questo è doveroso anche lo studio della fenomenologia religiosa, perché il fenomeno religioso è irriducibile e per il suo influsso nel comportamento umano costituisce un messaggio da interpretare. L'ermeneutica stessa delle culture permette di capire che l'uomo, prima di essere Homo faber, Homo sapiens, Homo ludens, non dico Homo coca-colens, è Homo religiosus, e che dall'esperienza del sacro deriva quella somma di valori per la vita umana tra i quali la libertà occupa i primi posti. L'uomo religioso è un uomo libero che sa vivere tra uomini liberi. L'uomo che respinge l'aiuto di una forza superiore nella sua vita si costringe a uno sforzo sovrumano. Il cittadino si trova così isolato, estenuato, di fronte a uno Stato che prende il posto della dimensione religiosa. Devo a questo citare un altro autore contemporaneo che ha avuto grande successo nel suo libro da Gallimard, Marcel Gauchet, sul Désenchantement du Monde, che scrive, da buon agnostico, il declino della religione si paga con la difficoltà di essere se stessi. La società post-religiosa, e questo l'ho preso proprio nella conclusione del libro di Gauchet, Le Désenchantement du Monde, la società post-religiosa è anche la società dove il problema della follia e del disordine intimo di ciascuno prende uno sviluppo senza precedenti. È una società psichicamente stanca dove si è costretti a vivere a nudo e nell'angoscia, dove si smarisce il senso della libertà e il suo uso. Sono alla pagina 302. E ci troviamo in questo momento di fuga della nostra cultura fra esaltazione e depressione, fra la certezza paranoica di essere il solo e il centro e il lavoro schizofrenico di annullamento di sé come sé. In altre parole, perdendo il senso di Dio, l'uomo perde anche il senso di se stesso, distruggendo la propria possibilità di essere autenticamente libero. Arriviamo così al terzo punto della prima parte, la cultura e la fede come radici della libertà. Interpretare la libertà oggi, nella polivalenza di significato che racchiude, significa scoprire che proprio la cultura e la fede diventano custodi della libertà umana. Quando Paolo VI, che ho già citato, afferma con la dottrina millenaria della Chiesa che l'uomo è simile a Dio nella libertà, pone la discussione, si deve riconoscere, su di un livello assai diverso di quello rispetto a quello della nostra cultura dominante. La libertà, dice il pontefice, deve essere studiata con diligenza seria e serena, se non si vuole spegnere la luce e farne un termine di confusione equivoca e pericolosa. considerata nel suo concetto umano e razionale come autodeterminazione, come libero arbitrio, noi saremo fra i primi ad esaltare la libertà, a riconoscerne l'esistenza, a rivendicarne la tradizione del pensiero cattolico che ha sempre riconosciuto questa prerogativa essenziale dell'uomo. Infatti, la cultura del Vangelo, parola di libertà e liberazione, difende la libertà dell'uomo rendendolo con questo responsabile delle sue azioni. Certo, è dalla saggezza e dalla cultura umane che la Chiesa ha imparato questa verità, ma è dalla rivelazione divina che l'ha resa certa. Anzi, la libertà radicata nella fede in Cristo è uno dei segni primigeni della somiglianza, lo ripeto, dell'uomo con Dio. E così Cristo rivela l'uomo a se stesso e i valori dei quali il Creatore ha voluto che godesse la creatura. L'uomo ragionevole racchiude quella dignità personale che diventa tutela della libertà e guida dell'agire, e in questa padronanza di sé l'uomo è davvero libero e responsabile. Fede e cultura del Vangelo collaborano dunque insieme per dare significato alla libertà. E il mistero del Natale, da poco celebrato e contemplato, ce lo insegna. Questo mistero del Natale da dove procede? Da dove trae forza? Diciamolo pure, è l'effetto dell'amore. Questo mezzo divino di unificare l'uomo in se stesso e di unire il genere umano al Dio fatto uomo non è, non può essere una determinazione imposta con la forza, alla quale non sarebbe impossibile sostrarci. La fede pertanto è proposta, non imposta. Dio rispetta troppo la sua creatura che ha fatto libera. Se la fede e l'intelligenza sono amiche, quanto più le sono la fede e la libertà. Cosa potrebbe valere un amore che fosse un atto di costrizione anziché una scelta libera? In quell'atto d'amore divino è radicato ogni atto di libertà dell'uomo a servizio del bene. La cultura del Vangelo è cultura del bene, e quanto più si fa bene, tanto più si diventa liberi e l'uomo cresce nella responsabilità e la libertà si fa ricerca della verità. Nella sua lettera autografa costitutiva del Pontificio Consiglio della Cultura, Giovanni Paolo II ne avverte la enorme importanza, dicendo come il dialogo della Chiesa con le culture fosse un campo vitale nel quale è in gioco il destino del mondo in questo scorcio del secolo. Esiste infatti, scrive il Pontefice, una dimensione fondamentale in grado di consolidare o di scuotere fin dalle fondamenta i sistemi che strutturano l'insieme dell'umanità e di liberare l'esistenza umana, individuale e collettiva, dalle minacce che pesano su di essa. Questo scritto esattamente 10 anni fa. Papa Giovanni Paolo II ci mette in una sfida che è la sfida unica capace di formare uomini liberi, autenticamente liberi, con quella libertà che ci dà la fede. E arrivo adesso alla seconda parte, l'Europa e la libertà. L'Oriente europeo e la libertà riconquista. Giustamente Giovanni Paolo II ha dedicato un capitolo interno, come sapete, della sua enciclica Centesimus Annus, scritta per il centenario della Rerum Novarum all'anno 1989, e agli avvenimenti che prodottisi nei paesi dell'Europa centrale ed orientale hanno un'importanza universale, occasioni offerte alla libertà umana per collaborare col disegno di Dio nella storia. La libertà, come la salute, si comincia a conoscere quando non c'è più. Queste parole dello studioso Stanislas Grigel, che avevo invitato a partecipare al simposio presinodale di cultura che il Santo Padre mi aveva chiesto di fare per preparare il sinodo dei vescovi europei. E dunque la nostra riflessione era sul cristianesimo e la cultura in Europa come memoria, coscienza e progetto. E così eravamo direttamente, direi, a cuore del dramma dell'Europa, cercando di capire cosa possa significare essere privati di libertà. Così vedremo l'analisi delle strade e percorse dell'Occidente ci condurrà a scoprire cosa significhi abusarne. Quello del cosiddetto Est Europa, oggi tornato al centro della cultura europea, nella riconquista del genuino profilo storico-culturale che quelle nazioni hanno sempre avuto nel corso della storia, e il ricordo drammatico della schiavitù vissuta sotto il dominio marxista-leninista ateo, e oggi tornato a palpitare come il cuore dell'Europa liberata e libera. Cosa ci dice Grigel? Nella malattia è il corpo a deteriorarsi, nella schiavitù è il nostro soggetto a sparire. La sua essenza ci impedisce di rispondere alla verità dell'uomo, ci impedisce di lavorare. Sempre più assomigliamo ad animali ammaestrati che reagiscono agli stimoli, così che il mondo assomiglia sempre di più a un immenso circo. I comunisti, è un polacco che parla, volevano per l'appunto fare del nostro paese un circo. La libertà come dono non è un dato di fatto, è una realtà divina che deve essere ricevuta e contemporaneamente conquistata. Viene all'uomo come un dono e rappresenta una missione che l'urge, che si compie tra la sua persona e quella di Dio. Oserei quasi dire, continuisce, che la libertà è il contenuto della comunione tra l'uomo e Dio. Ecco perché la nostra libertà è così fragile e al tempo stesso indistruttibile. Fragile e indistruttibile. In un certo senso la libertà ci precede e ci conduce di giorno con una colonna di nube, di notte con una colonna di fuoco per farci luce. È quindi impossibile distruggere l'uomo e la nazione senza la loro collaborazione. E questa consiste nel voltare le spalle a Dio. In queste parole di Grigel sono condensati in un'analisi molto lucida i pericoli e i drammi che il voltare le spalle a Dio comporta nella conseguenza inevitabile della perdita dell'uso della libertà. E nell'Europa forzatamente atea del centro ed est accade proprio questo, la dimostrazione storica di come la perdita del senso religioso dell'uomo e con essa della cultura della dignità dell'uomo, hanno perdato alla perdita del dono costitutivamente umano che è quello della libertà. E questa memoria storica ci porta a considerare ancora una volta i contenuti e i risultati dell'ateismo. Dio scomparso dall'orizzonte dell'uomo, non più solo un rivale dell'uomo, un ostacolo alla sua realizzazione, ma un estraneo. Significa infatti eliminare da questo orizzonte i presupposti essenziali della vita umana. rifiutare Dio non è più, se posso dire così, nella nostra cultura, come nel passato, un privilegio aristocratico, ma un diritto democratico è rivendicato. Questo potrebbe essere lo slogan di una società che fa di quel rifiuto l'atto privilegiato di libertà. In una concezione antropocentrica e riduttiva ci siamo davanti all'ipotesi inutile, per usare le parole di Jean-Paul Sartre. In tale prospettiva, mi pare, si rivelano significative le parole di Félicité de Lamennais all'inizio del secolo scorso. Il secolo più ammalato, scrive, non è quello che si appassiona per l'errore, ma il secolo che disdegna e trascura la verità. Parole forti a un secolo e mezzo di distanza. Acquista anche spessore culturale la tesi di Romano Guardini che ha citato, caro Monsignore, secondo cui è già iniziata quella che egli chiama la fine dell'epoca moderna, quella parte d'Europa nella memoria del suo passato, disdegnando la verità, perdeva la libertà. Trascurare la verità significa postulare forzatamente l'autonomia dell'uomo, e questo, in questo orizzonte, Dio non ha più spazio, diventa l'inutile ipotesi. Ma non so se Jean-Paul Sartre aveva letto La Place, che già rispondeva a Napoleone in persona, che gli domandava quale spazio riservasse a Dio nel suo sistema del mondo, maestà, io non ho bisogno di questa ipotesi. Così mi pare, avrebbero potuto rispondere molti regnanti nei paesi dell'Europa orientale, ideologicamente e politicamente fautori di un mondo in cui ciò che conta è l'uomo, solo l'uomo, escludendo nell'ossessione della propria autonomia qualsiasi ricorso a qualcosa di più alto, visto sempre come minaccia alla sua libertà. Quell'Europa vide nella libertà assoluta la sua massima realizzazione. Scrisse, mi pare, idealmente alle costituzioni dei diversi stati che la composero la massima di Jean-Paul Sartre: quando la libertà si incarna nell'anima dell'uomo, gli dèi non possono niente contro di lui. E però quest'umanesimo della cosiddetta modernità fu la perdita del senso autentico dell'umanesimo. In quell'equivocato umanesimo si perse con il senso di Dio la coscienza della vita e della libertà, della loro gratuità, togliendo contemporaneamente il senso del bene e del male che trascendono le leggi della materia. Dramma, continua Grigel, il dramma della libertà umana, fatto di santità e di peccato, è il dramma della Chiesa, perché il dramma della comunione delle persone. La Chiesa nasce nei cuori degli uomini come storia dell'impossibile che diventa possibile. Il senso del peccato, senza il quale non esisterebbe la storia, ma soltanto delle storie banali e noiose di nostre prostituzioni con le cose possibili, appartiene all'essenza della Chiesa, e pertanto il grido di convertitevi ne costituisce la missione. Questo grido ci indica ciò che è liberale, e così più noi ci convertiamo all'impossibile, più apparteniamo al reale, e questo fa zampillare in noi la libertà. Vi lascio a meditare questi testi di Grigel. E la Chiesa, durante questo periodo, sotto l'impulso di Papa Giovanni, cosa faceva la Chiesa cattolica? Nel dramma europeo faceva un concilio ecumenico, il Concilio Vaticano II, confrontandosi con il mondo moderno e i suoi drammi. E che cosa è avvenuto? Si chiede il pontefice Paolo VI, e ricordo ancora, ho ancora negli occhi e nella memoria questa confidenza appassionata del pontefice alla chiusura del concilio. Cosa è avvenuto? Uno scontro, una lotta, un anatema? Poteva essere, ma non è avvenuto. L'antica storia del Samaritano è stata il paradigma della spiritualità del concilio. Riprovati gli errori, sì, perché ciò esige la carità, non meno che la verità, ma per le persone solo richiamo, rispetto e amore. Paolo VI nella sua enciclica Programma Ecclesiam Suam l'aveva sottolineato. La Chiesa deve venire a dialogo col mondo in cui si trova a vivere, la Chiesa si fa parola, la Chiesa si fa messaggio, la Chiesa si fa colloquio, la Chiesa in sintonia con la commossa preghiera di Sant'Agostino, ci hai fatto per te, Signore, e il nostro cuore inquieto finché non riposa in te. E la Chiesa, consapevole che il suo messaggio è in armonia con le aspirazioni più segrete del cuore umano, come scrive nel suo pascaliano Gaudium et Spes, solamente nel mistero del Verbo incarnato trova vera luce il mistero dell'uomo e della sua libertà. Volgiamo adesso verso il nostro Occidente. Cito sempre Paolo VI. Il cristiano che vuole vivere la sua fede in un'azione politica intesa come servizio non può, senza contraddirsi, dare la propria adesione a sistemi ideologici che si oppongano radicalmente o su punti sostanziali alla sua concezione dell'uomo, né all'ideologia marxista, cito il testo della Octogesima Adveniens, dunque tempi lontani, è per questo che ho scelto questo brano, molto interessante, né all'ideologia marxista, al suo materialismo ateo, alla sua dialettica di violenza, al modo con cui essa riassorbe la libertà individuale nella collettività, negando insieme ogni trascendenza all'uomo e alla sua storia personale e collettiva, ma prosegue, né all'ideologia liberale che ritiene di esaltare la libertà individuale, sottraendola ad ogni limite, stimolandola con la ricerca esclusiva dell'interesse del potere e considerando la solidarietà sociale come conseguenza più o meno automatica delle iniziative individuali e non già quale scopo e criterio più vasto della validità dell'organizzazione sociale. Queste riflessioni del lontano maggio 1971 mettevano già in evidenza le crepe aperte nella nostra cultura da correnti di pensieri come il razionalismo e il positivismo, che hanno frantumato la cultura cristiana della nostra Europa con l'esplodere di una cultura, se la posso chiamare cultura del consumismo, per la quale lo sviluppo economico viene ritenuto il valore supremo e il profitto perseguito senza scrupoli. L'uomo considerato per quello che ha, quello che produce, quello che consuma e non per quello che è. E mi pare che siamo nel cuore del dramma di questa cultura, nel non riconoscere il primato della persona, che è sempre un fine e mai un mezzo. Il nostro pontefice già nella Redemptor Hominis e poi nella sua trilogia sociale Laborem Exercens, Sollicitudo Rei Socialis e Centesimus Annus torna con vigore su questo primato della persona umana già espresso da Pascal, citato nella Populorum Progressio di Paolo VI, l'uomo trascende infinitamente l'uomo. Ed è in questo contesto che si pone il quesito. Ma la nostra società occidentale è autenticamente libera? Quale valore viene dato alla libertà? Quale senso, quale uso ne viene fatto? Entro quali confini è ristretta? L'economia occidentale, animata dal liberalismo come dottrina economica, crea un pericoloso fraintendimento in cui liberalismo e libertà, anziché ritenersi due valori diversi e talvolta apertamente in contrasto, vengono ridotti quasi a sinonimi. Certo, fenomeno complesso e di vastissime dimensioni, il liberalismo determina la nostra storia a partire dall'illuminismo come una grande corrente d'emancipazione dell'uomo, esigenza della sua libertà, ed è molto difficile racchiuderlo in una formulazione precisa e giudicarlo in modo univoco. Tuttavia possiamo, mi pare, dire che esso rappresenta una visione del mondo secondo la quale ciascuno è ridotto alla sua individualità e al suo diritto personale alla libertà. E da questo orientamento squisitamente individualistico consegue una concezione negativa della libertà, cioè l'assenza di norme oggettive e di valori che invece l'uomo, in quanto essere morale, avverte nella sua coscienza come obblighi da realizzare. E in questa prospettiva, l'uomo non è più concepito come un essere che comunica con gli altri e con l'altro trascendente, cioè come essere morale e religioso, che sono le radici, ho tentato di dirlo nel mio primo punto, della libertà. E così il liberalismo europeo, in quanto movimento d'emancipazione, viene a rivestire un significato ambivalente, positivo e negativo. Il suo aspetto positivo è senza dubbio la lotta per la libertà politica, sociale, economica e diritti dell'uomo e una società democratica. Ma il suo aspetto negativo risiede nell'assenza di doveri. Facendo della libertà una fine a se stessa, rischia di far cadere l'uomo nell'arbitrio e nel soggettivismo, proprio a scapito di quella dignità che pretende di salvaguardare. La ragione, mi pare, risiede nel fatto che recide ogni legame con la trascendenza falsamente identificata come istanza eteronoma. L'uomo che si colloca al centro del proprio mondo rifiuta ogni norma proveniente da altrove e così da custode del mondo diventa despota irresponsabile, così come lo diventava lo Stato nel sistema ateo-marxista-leninista, cancellando ogni uso responsabile della libertà. Di recente ho avuto il privilegio di discuterne a Praga con degli attori della rivoluzione di velluto. Abbiamo riflettuto sulla nuova libertà religiosa ad est e il liberalismo ad ovest. E la conclusione è stata che ci troviamo oggi di fronte a una concezione antropologica, antropocentrica, che si afferma sempre di più nella cultura dominante, sia ad est adesso che ad ovest. E questa cultura della modernità o cosiddetta postmodernità, io non entro in queste discussioni non sempre chiare sulla modernità e la postmodernità, ma mi pare che questo per la Chiesa diventa una sfida veramente grande che fino adesso non riesce sempre bene a affrontare, cioè dimostrare come Dio, ben lungo dell'essere il rivale dell'uomo e della sua libertà, è invece la fonte e il suo miglior garante. Mi pare che questa è la più ardua sfida della Chiesa alla vigilia del nuovo millennio nella nostra cultura moderna, perché ci troviamo oggi in una situazione che oscilla nel, dopo il fallimento del prometeismo marxista con quello del vitalismo nietzschiano. E quanto Giovanni Paolo VI ha definito a Parigi, mi ricordo ero presente la sua prima visita nel lontano 80, come la metatentazione. L'uomo soggetto alla tentazione di rifiutare Dio in nome della propria umanità. Si tratta di una tentazione particolarmente profonda, minacciosa dal punto di vista antropologico, se si considera che l'uomo non ha senso se non in quanto immagine e somiglianza di Dio, perché lo osservava già il nostro Romano Guardini, tale atteggiamento distrugge l'autentico atteggiamento di libertà, poiché questa ultima racchiude da una parte il coraggio di essere veramente liberi, con tutto ciò che questa libertà implica in fatto di obblighi e di pericoli, dall'altra l'accettazione del proprio essere finito, che non è veramente possibile se non nella sottomissione a Dio e davanti al suo cospetto. L'ho preso nel suo libro Liberté, grâce et destinée, che sarà anche tradotto, penso, esiste in italiano. All'indomani, concludo questo brano, della catastrofe antropologica marxista, i miraggi libertari portano il rischio di un nuovo totalitarismo culturale. E dobbiamo, di fronte a questo, tentare, terzo punto della seconda parte, di identificare gli equivoci nella cultura europea su Dio e la libertà. Questo ho tentato di fare a luglio scorso a Madrid con esponenti del continente, riflettendo sulla fede in Dio e la libertà nell'Europa degli anni 90. Si può infatti, e questo era citato dal professore Gaspare Mura, direttore dell'Istituto per lo studio dell'ateismo, citava Gadamer. Tutte le lotte per la libertà tra popoli, razze, classi sociali nella storia europea confermano che la libertà è l'oggettivo fondamentale dell'uomo. E nell'epoca moderna, soprattutto a partire dall'illuminismo, ideali che alla loro origine contenevano delle autentiche istanze di libertà, si sono ridotti nel corso della storia del pensiero umano a propri equivoci che rendono difficile la sua realizzazione. Due equivoci fondamentali nella cultura europea, mi pare, su Dio e la libertà, cioè la perdita, per motivi filosofici e storici, del legame tra libertà e obbligo morale e il concetto di autonomia dell'uomo che sembra renderla incompatibile con la fede in Dio. Mi pare infatti che il rapporto tra libertà e obbligo è il primo degli equivoci della cultura moderna che vizia una giusta interpretazione della libertà umana. Nel mio testo scritto potrete identificare cinque ragioni che ritengo di questo fenomeno. Il primo, lo sviluppo della scienza e della tecnica, e qui seguo e cito Heidegger nella sua identificazione del homo technologicus, che considera reale solo il mondo delle leggi fisiche. Il secondo punto che ritengo va da Hegel e Dilthey a Heidegger è quel relativismo storico e esistenziale, secondo il quale la libertà dell'uomo consisterebbe nell'accettare soltanto la sua storicità, cioè la sua radicale finitudine di sine sutode. Il terzo è la tesi di Jean-Paul Sartre: o la libertà è totale, oppure non c'è libertà. L'uomo non può essere una volta libero, una volta schiavo, interamente sempre libero, oppure non lo è affatto, che è questa la dimostrazione. E ne consegue, come sapete, l'ateismo postulatorio, e solo postulando la non esistenza di Dio che è possibile fondare la libertà dell'uomo, la tesi sviluppata nel famoso Les Mouches. Questo mi pare falso equivoco sartriano e un vero veleno della cultura moderna che mi pare omnipresente sia nella filosofia che nella letteratura, nel teatro e la filmografia europea. Ci sarebbe da sviluppare, qui cito Karl Jaspers, che al contrario di Sartre, nella sua analisi molto fine delle situazioni limite dell'esistenza umana, cioè dalla nascita alla morte, ci dimostra come la libertà, al contrario della falsa idea di Sartre, non è mai una libertà totale, ma una libertà situata. Arrivo al punto 4, che è la paura della libertà, descritta da Soren Kierkegaard a Viktor Frankl, e il quinto e ultimo, la perdita del vero senso della persona umana nella nostra cultura, che mi pare dimenticare due dimensioni fondamentali sulla persona umana, cioè l'uomo non è soltanto natura, ma è anche natura. E per me tutto è lì, non è soltanto, ma è anche natura, e per questo la realizzazione dell'uomo è sempre in movimento, homo viator, ci lamenta Gabriel Marcel. Questo per il primo equivoco. Il secondo, appena lo posso presentare, nella relazione tra libertà dell'uomo e fede in Dio nella cultura contemporanea, e il concetto di autonomia dell'uomo che è ritenuto incompatibile con la fede in Dio. Antagonista, rivale, nemico della libertà, da Rousseau a Feuerbach, Nietzsche, e arriviamo all'estremità francese di Michel Foucault nell'archéologie du savoir, Claude Lévi-Strauss nell'antropologia strutturale, perché si svanisce nel crepuscolo dell'uomo. E di fronte a questo presento rapidamente invece quella intuizione di Hans Urs von Balthasar, che è ripresa da Casper nei suoi ultimi libri, che cioè l'antidoto a questo veleno della cultura nostra viene nel ritrovare l'affermazione del Dio, non più del deismo e del teismo, ma del Dio Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, che con amore ci fa il dono della nostra libertà. Arrivo all'ultimo punto sugli orientamenti attraverso queste difficoltà per l'affermazione della vera libertà nella nostra cultura. Mi pare che la mitica proposta, su questo vorrei insistere, di una libertà senza Dio è stato un vero fallimento, che era già stato identificato dal padre Henri de Lubac nel suo dramma dell'umanesimo ateo, espressione ripresa dall'enciclica Populorum Progressio. Non è vero che non si può fare un mondo senza Dio, ma l'umanesimo esclusivo è un umanesimo inumano. Poi elenco, mi pare, i punti sui quali dovrebbe porgere la nostra riflessione profonda, cioè i giusti rapporti tra la sincerità e la verità, tra la fedeltà a se stessi e la responsabilità. Trovare come nella nostra Europa vediamo le antinomie della libertà, cioè la nostra libertà situata, descriverla come situata non soltanto di fronte a Dio, a se stesso, agli altri, ma anche alla natura, e qui mi pare troviamo l'immenso campo ecologico, perché vediamo come la concezione della libertà come potere assoluto e dispotico dell'uomo sulla natura ha proprio rovinato la natura. E arriviamo all'attuale situazione politica sulla quale siete più competenti di me. Dunque vado subito verso le radici di una patologia della nostra libertà. Io direi che siamo in questa situazione eredi di concetti erronei che vanno dal volontarismo di Descartes e dall'illuminismo alle filosofie del sospetto di Nietzsche, Freud, dell'esistenzialismo e in particolare quello di Sartre, e che dobbiamo di fronte a questo ritrovare il senso vero della nostra vera libertà autonoma, che invece di rendere incompatibile l'autonomia umana di fronte a Dio, trova in Dio proprio il suo fondamento. E così concludo che per vivere nella felicità la nostra condizione umana di libertà, questa è la tematica del mio recente libro sulla felicità e la fede cristiana, dobbiamo ritrovare una antropologia fondata sulla cristologia e una teologia fondata sulla metafisica dell'essere, che per noi è la fonte del vero realismo sul quale si può poggiare una vera libertà. In altre parole, ritroviamo la risposta basilare ai due quesiti: che cos'è l'uomo e che cos'è Dio. E così ci ritroviamo, l'ho detto, seguendo Baltasar e Casper, di fronte al Dio personale nella sua comunione d'amore, che è modello per l'esercizio della nostra libertà, che consente di uscire dalla falsa antinomia tra l'autonomia dell'uomo e l'apparente eteronomia che viene dal fatto di riconoscersi creatura, e invece di riconoscere come siamo abbiamo proprio un dono che ci è fatto da Dio. E così troviamo la vera felicità e il pensiero di Nikolai Berdiaev, che cito a questo punto. Concludo. Direi che siamo di fronte a una sfida enorme nella nostra cultura umana. E mi piace di citare un pensiero di Henry Newman, Pater Futuris Acti, mi diceva Paolo VI. Newman, padre della Chiesa per la nostra cultura. E questo pensiero mi torna spesso alla memoria. Il cardinale inglese scrive: «È più importante lottare contro le deviazioni fondamentali del pensiero che operare alcune conversioni o chiuderci in dispute confessionali». Senza dubbio, mi pare Newman ha ragione quando parla delle dispute confessionali oggi così nocive. Forse ha meno ragione quando parla delle conversioni, che sono sempre l'opera dello Spirito Santo, ma in ogni caso ha senz'altro ragione quando sottolinea l'importanza decisiva della verità di fronte alle deviazioni fondamentali del pensiero è quella di una libertà senza riferimento a Dio e una di queste ne sono sicuro. Il mistero della felicità umana trova la sua chiave in Gesù Cristo come archetipo di ogni esistenza donata, all'esempio del quale possiamo vivere la nostra vita come felicità nella speranza del suo compimento ultimo. E credo che abbiamo oggi nel programma che il Santo Padre ribadisce sempre di nuova evangelizzazione, direi che abbiamo ad evangelizzare la libertà, che uno dei doni più profondi dell'uomo, e io nel mio dialogo con le culture e con i non credenti sono convinto che dialogando sulla libertà si può liberare questa libertà che si costituisce quasi giorno prigioniera di se stessa, ma che rimane sempre ardente sotto la cenere come braccia pronta a ravvivarsi. Grazie.